Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Stand by and action. La luce della torcia illumina una cripta di fango e mattoni. Le lapidi degli antichi avi brillano tra topi e ragnatele. Al centro c'è una bara lucida, ha una finestrella rotonda per ammirare il viso del congiunto come si usava nell'Ottocento, ma se poteste guardare, vedreste che la bara è di cartone, le pareti di legno leggero e i topi sono... No, sono veri i topi. Quelli non costano molto. Stop! Oggi a Destini Incrociati siamo sul set di un film dell'orrore che farà epoca grazie al regista, il mago del low budget Roger Corman e alla sua star, l'inimitabile Vincent Price. Credetemi, i set di Roger Corman non sono come tutti gli altri. Sono abbastanza inusuali. Come dire, folli, veloci set che macinano anche 50 inquadrature al giorno, ma dove si respira cinema dal primo all'ultimo minuto, come ricorda l'attore Dick Miller. Non importava quante ore lavorassimo, Roger ti faceva sentire davvero il suo amore per il cinema. È il 1960 e Roger Corman ha deciso di togliere le locandine dei suoi film dalle pareti dell'ufficio. Sono almeno 40. E considerando che è diventato regista solo 6 anni prima, sono un'enormità. Ma lui è uno che non ha tempo da perdere. Il tempo è denaro e lui ne ha sempre troppo poco. Con $200,000, un decimo del budget della donna che visse due volte di Hitchcock, per intenderci, Corman deve realizzare 80 minuti di puro intrattenimento. Di solito gli ingredienti sono gli stessi. Un eroe senza macchia, una donna seminuda e in pericolo e un mostro terribile che cambia a seconda della moda del momento. La donna Vespa o il vampiro del pianeta rosso. Piccoli film che promettono emozioni forti, ma che spesso sono anche riusciti, come La piccola bottega degli orrori, girato in un weekend per non sprecare le ultime ore di affitto del set, come conferma il protagonista Dick Miller. Roger era un grande produttore. Riusciva a fare 9 film all'anno, non tutti buoni forse, ma il pubblico li adorava. Sono film che riempiono i parcheggi dei drive-in, dove ragazzi impommatati alla James Dean reclinano i sedili della loro fiammante Buick per fare colpo su ragazze vestite di raso, come Natalie Wood. Ragazzi che imitano i divi del cinema di serie A, ma che poi corrono a vedere i film di Corman, perché sono liberi, selvaggi, come la musica di Elvis Presley. Ma ora Corman vuole dare un taglio con il passato. Chiude gli scatoloni con i suoi vecchi film, irrompe nell'ufficio del suo socio, Sam Hartzkopf, e fa la voce grossa. Basta con piccoli film in bianco e nero da proiettarsi insieme. Vuole fare il grande salto. Con gli stessi soldi girerà un lungometraggio a colori, in formato panoramico e con una grande star. Hartzkopf giochicchia con il sigaro tra le labbra e lo lascia parlare. Lo conosce da anni e sa che fin dagli inizi della carriera Corman non ha mai sbagliato un colpo. La mia carriera non cominciò sotto i migliori auspici. Il meglio che riuscì a trovare fu un lavoro nell'ufficio postale della Fox. Andavo in giro per gli studi in bicicletta tutto il giorno. Dopo un po' riuscì a diventare sceneggiatore. Ero molto eccitato. Il primo soggetto firmato da Corman è il romantico avventuriero, un western con Gregory Peck su cui la Fox punta molto. Anche per questo le idee troppo moderne del ragazzo che vorrebbe trasformare il western in una commedia non piacciono ai capi. E quando il film esce, il suo nome non figura nemmeno nei titoli di testa. Gli Oscar nell'ufficio del presidente della Fox tremano quando Corman sbatte la porta per andarsene, imprecando con tutto lo slancio tipico del Michigan. Non vi diremo cosa gli disse, ma possiamo solo dirvi che appena uscito dall'ufficio, Corman fece qualcosa di inaspettato. Presi il primo volo per l'Inghilterra. e grazie ai soldi del fondo per veterani di guerra andai a studiare letteratura ad Oxford. Nessuno se l'aspettava da me. Effettivamente non sembra il tipo. Gli piacciono le auto veloci, le belle donne e per un soffio non si è laureato in ingegneria. Eppure, nel campus di Oxford, si nutre delle tragedie di Browning e Shakespeare e di pessimo Pudding, sognando la sua grande rentrée con un film tutto suo. Essere o non essere un grande regista, questo è il problema. Ma Roger lo risolve, tornando in America con l'idea per un film e abbastanza soldi per produrselo in proprio. Il film, 5 colpi di pistola, è ovviamente un western, ma non è un granché. Eppure da quel momento Corman non si ferma più, realizzando in pochi anni un piccolo impero cinematografico fatto di mostri, astronavi, chilometriche file ai drive-in, come ricorda l'attrice Jane Russell. Era il momento giusto per buttarsi. Il mercato stava cambiando. Nascevano molte case indipendenti, mentre gli studios annaspavano perdendo terreno. Gira una leggenda a Hollywood. Roger Corman è l'unico produttore a non avere mai perso nemmeno un dollaro. Forse è vero, forse no. Certamente la sua Hollywood non è quella dei grandi studios. Quelli li vede da lontano, dalle finestre degli uffici della sua società, l'American International Picture, che a dispetto del nome altisonante è fatta di due stanze con la veneziana abbassata e l'aria condizionata sempre rotta. Ma lui continua a sognare, non in grande forse, ma incessantemente. Do you believe in ghosts? Progetta molti film e li realizza tutti. Cosa più unica che rara nel mondo del cinema. E intanto prepara il suo addio al double feature, il doppio spettacolo tipico dei drive-in, per costruire finalmente qualcosa di più personale e ambizioso. È il 1960 quando Corman confessa ad Hartzkopf di avere trovato l'idea che cambierà la loro vita. Tira fuori un libro nero. Hartzkopf pensa che voglia realizzare un horror religioso, sudafreddo. Ma quella non è la Bibbia, ma l'opera del più grande scrittore americano. John Steinbeck? Truman Capote? Quanto ci costeranno i diritti? Protesta Hartzkopf, tormentando il suo sigaro. Niente, perché quelle sono le cronache allucinate di un uomo morto più di 100 anni prima. L'idea di ispirarmi ai racconti di Edgar Allan Poe era nuova, originale per l'epoca. Ci credevo molto e per questo lo scelsi per fare il mio primo film. Si dice che Poe fissasse gli occhi della sua amata Leonora mentre veniva seppellita, giovane e bellissima. Leonora soffierà il suo alito di morte su tutta la vita e l'opera del maestro, pervadendola del tragico furore della passione e dell'abbandono. Ma cosa c'entra il mondo malato di Edgar Allan Poe con quello moderno e tormentato del 1960? Sono gli anni in cui gli Stati Uniti sentono i germi della ribellione giovanile, della disuguaglianza razziale e la minaccia di una Russia sempre più forte e aggressiva. Gli anni in cui i racconti di Poe sono ancora tabù e introvabili sugli scaffali delle librerie. Anche per questo Corman, con il suo consueto fiuto per gli affari, decide di regalare al pubblico l'evasione negli abissi di personaggi inquieti e tormentati e non nella solita galassia spaziale di cartone. Scelsi Poe perché prima che Sigmund Freud lavorasse sulla teoria dell'inconscio in modo scientifico, lui fece la stessa cosa in modo artistico. Scriveva storie horror, psicologiche, perverse, usando la mente come vero narratore. Il racconto che sceglie è La caduta della casa Usher, che narra la discesa agli inferi di una nobile famiglia tarata. Di solito è Corman a scrivere le sceneggiature dei suoi film, ma questa volta sa che ci vuole qualcuno capace di rimpolpare le poche pagine del racconto con una storia degna di Edgar Allan Poe. Sarà anche un produttore di film, ma Hartzkopf è un vero teledipendente. E il venerdì sera torna a casa prima dall'ufficio per cenare di fronte a una nuova serie che, lo sente, cambierà i connotati dell'horror. Si chiama Ai confini della realtà. State per entrare in un'altra dimensione, non solo visiva o sonora, ma anche mentale. State per compiere un viaggio nella misteriosa terra dell'immaginazione, ai confini della realtà. Non ci sono soldi, dice chiaramente Arzkov parlando del progetto a uno degli autori della serie. Si chiama Richard Matheson, suda copiosamente, ed è lo scrittore del terrore più promettente del momento. Firma, lasciando un alone umido sul contratto. L'idea di sceneggiare un racconto di Poe mi eccitava da morire e accettai subito, anche se all'inizio non sapevo nemmeno chi fosse Roger Corman. Matheson si dedica anima e corpo alla riscrittura di Casa Usher e disegna con abilità la figura di Roderick Usher, un nobile decaduto, ambiguo e perverso, un ruolo fondamentale che non può essere interpretato da chiunque. Bela Lugosi è morto, Boris Karloff è troppo costoso, e allora chi rimane? Roger Corman non è un teledipendente come Arzkov, ma quella sera ha bisogno di staccare la mente e accende il televisore. La ricerca dell'attore giusto lo sta tormentando da giorni e, come si sa, il tempo è denaro per lui. Sta per appisolarsi sul divano marrone quando viene svegliato da un jingle chiassoso. O forse è un incubo. No, è la sigla di un gioco a premi che si chiama $64,000 per una risposta. Corman non ama i quiz, odia che i concorrenti ne sappiano più di lui, ma all'improvviso una lampadina si accende nel suo cervello. Chi è quell'elegante signore che ha appena indovinato una domanda sull'arte antica? Ecco a voi lo sfidante, l'esperto d'arte Vincent Price. Allora, Vincent, l'argomento della domanda è arte e artisti. Vale $1,000. Attenzione. Quale grande artista progettò l'impareggiabile campanile di Firenze nel 1334? Giotto. Giotto è la risposta esatta. Hai vinto $1,000. Quando gliene parla, Arzkov lo prende per matto. Vincent Price è un attore serio, con un ricco curriculum di teatro, ma al cinema è un po' che non si vede. Perché dovrebbe accettare il ruolo di Roderick Usher? Il ruolo di un uomo che seppellisce viva la propria sorella. Lo scelsi perché sapevo che era una persona intelligente, sensibile. Aveva l'aria da gentiluomo d'altri tempi. Le qualità che io stavo cercando per il film. Il giorno dopo, Vincent Price si sventola il fazzoletto inondato di colonia sul viso. L'aria condizionata nell'ufficio di Corman è ancora rotta, ma l'atmosfera rinfresca quando lui firma il contratto per i vivi e i morti. E così inizia l'avventura. Ma come andrà? Come lavoreranno insieme l'arrogante regista di serie B e il sofisticato attore in declino? Scopritelo tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo nella Hollywood dei primi anni 60 e il regista Roger Corman, remida dei drive-in, è stanco di girare film spazzatura. Per fare il salto di qualità scomoda una storia di Edgar Allan Poe e un attore in declino dal grande fascino, Vincent Price. Ma perché il pubblico dovrebbe sborsare 50 centesimi per vedere un vecchio attore di teatro alle prese con un horror senza vampiri e dischi volanti? È la domanda che Vincent Price si fa ogni mattina in camerino, mentre il barbiere della produzione gli fa la barba, all'antica, come piace a lui. Il contatto con la lama affilata del rasoio gli fa correre un brivido lungo la schiena. Per il ruolo di Roderick Usher, glabro e quasi albino, ha dovuto rinunciare ai suoi leggendari baffetti. I baffi e lo sguardo obliquo sono i suoi marchi di fabbrica fin dagli anni 30, quando Hollywood lo ha strappato a suon di dollari dai palcoscenici di Broadway. Lui, che aveva abbandonato St. Louis e la fabbrica di dolci del padre per scappare in Europa e ammirare l'arte antica del Louvre e dei musei vaticani. Ma è Londra a conquistarlo con le sue mille opportunità. I riflessi metallici del Tamigi al tramonto, lo scricchiolio delle tavole dei palcoscenici. quando annuncia ai suoi compagni di viaggio che non tornerà con loro per restare e studiare recitazione, gli altri scommettono che cambierà idea in un mese. Vincent sorride. Sa che hanno già perso. Next Friday stay at home until I say that you'll see the rising sun. Falling is easy, so stay flat on your back. It's your best troll, no distractions, concentrate and cap in hand. Anche se americano, Vincent è shakespeariano nell'animo, con quel tocco ironico e maestoso da uomo del Rinascimento che rende ogni sua entrata in scena memorabile. E infatti, la grande occasione non tarda ad arrivare. Prima Broadway e poi Hollywood. Tutto di fretta, in soli 2 anni, come ricorda la biografa Lucy Chase Williams. Hollywood era il massimo per uno come lui, cresciuto con i grandi film dell'epoca d'oro. La sua star preferita era John Barrymore, che ammirò tantissimo nel Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E proprio questa naturale inclinazione per ruoli drammatici e sopra le righe convince i produttori di Hollywood a fargli crescere i baffi e affidargli ruoli da cattivo elegante senza scrupoli, come in Vertigine di Otto Preminger. Price all'inizio non è convinto. Lui è un attore molto più versatile di quanto credono loro, ma alla fine ci prende gusto, come conferma la collega Jane Russell. Vincent interpretava sempre parti da cattivo sofisticato e mi aspettavo che sarebbe stato così. Invece era molto spassoso, sarcastico, brutale e magnifico. Brutale, magnifico e anche così sicuro di se stesso che decide di diventare, caso unico all'epoca, attore freelance. Ma non c'è posto a Hollywood per chi pretende troppa libertà. E Price è costretto a recitare in tutti i film che gli offrono, anche i più sgangherati. Lui non se ne fa un cruccio. In quel momento ciò che gli interessa di più è la sua vita privata. Torna a viaggiare, come da ragazzo, ma non si limita a visitare i musei. Insieme alla moglie Mary, va alla ricerca di opere d'arte per arricchire la sua collezione e in pochi anni trasforma la splendida villa sul mare a Malibu in una vera e propria galleria d'arte moderna, aperta agli amici come l'attore Dennis Hopper. La casa di Vincent era piena di gioia e di opere astratte, impressioniste e perfino di action painting. Non ero mai entrato in un museo e fu lì che vidi per la prima volta le opere di Franz Kline e di Jackson Pollock. Ama la vita, l'arte e il cinema, Vincent Price, ma non per forza in quest'ordine, anche perché pur di recitare la sua grande passione, accetta di comparire in alcuni discutibili show televisivi dove fa il verso a un attore elegante e un po' invecchiato che non azzecca un film. Insomma, prende in giro se stesso. E la fine? No, anzi, è proprio la TV a dargli un'altra possibilità di riscatto. Grazie al successo del quiz $64,000 per una domanda, nel quale si conferma raffinato esperto d'arte, Price prende parte a un esperimento interessante, la prima televendita d'arte della TV americana. Hello. Salve. Molti di voi si chiederanno cosa stia facendo con questa scala. Ora ve lo dimostrerò. Stavo appendendo quadri e non persone. Nonostante l'ironia, simile a quella dei siparietti di Hitchcock nella sua serie TV, condurre una televendita potrebbe sembrare umiliante per un attore abituato alle luci del grande schermo. E invece è così che Price si fa conoscere dal grande pubblico. Quello sterminato che non va al cinema, non legge i giornali, ma che lo ferma per strada con le stelle negli occhi e il blocco degli autografi, come racconta la figlia, Mary Victoria Price. Fin dai tempi del quiz, mamma diceva che era diventato famoso come un campione di basket. In più, papà riceveva molte lettere dai direttori dei musei che gli dicevano che l'affluenza di pubblico era raddoppiata grazie ai suoi show. Ma è abbastanza per Vincent? Nel 1960 Vincent Price è un attore freelance di 50 anni, troppo eccentrico e indipendente per il cinema che conta. Negli ultimi anni la TV gli ha dato popolarità, ma solo un suo film, La vendetta del dottor K, è andato forte. Price potrebbe accontentarsi, ma recitare gli manca e ha bisogno di nuovi stimoli e altre sfide. Sta bevendo un martini, affondato nella sua poltrona preferita di fronte a un Jackson Pollock, quando la governante gli dice che c'è un certo Roger Corman al telefono. Price aspetta di finire il suo cocktail, mangia l'oliva con 2 piccoli morsi e dà un'ultima occhiata alla grande striscia nera che esplode sulla tela arancione. Poi risponde al telefono come se non sapesse che Roger Corman gli offrirà un film, uno dei pessimi film per cui è famoso nell'ambiente. Ma che importa? Recitare è recitare. Oppure questa volta c'è qualcosa di diverso. Vincent sente il cuore battere a mille e tra poco scopriremo perché. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati, Vincent Price ha appena varcato la soglia del set de I vivi e i morti, il film che Roger Corman, sprezzante del pericolo, ha voluto trarre da La caduta della casa Usher di Edgar Allan Poe. Ed è anche il vero motivo per cui Price ha accettato il film, come ricorda lui stesso. Per me Poe è il più grande scrittore di tutti i tempi. L'ho sempre amato moltissimo e devo dire che il nostro film è molto buono, anche se abbiamo cambiato parecchio la storia originale. Per Price è una sfida al pari di Shakespeare. È una sfida accettare il ruolo di Roderick Usher, un mostro senza protesi ed effetti speciali, una vertigine d'incubo che scaturisce dal profondo dell'anima. Ecco cosa ne pensa la biografa, Lucy Chase Williams. Vincent Price era la personificazione perfetta dell'antieroe di Edgar Allan Poe. La sua presenza fisica, la voce melliflua, le sue caratteristiche eccellenti si adattavano perfettamente ai film in costume di quel periodo. Ma anche Corman non si risparmia. Il ritmo imposto sul set, sempre con un occhio puntato al budget e uno allo stile, è forsennato e incredibile. È un film difficile, introspettivo, eppure spettacolare, da girare in soli 15 giorni, il tempo in cui di solito un regista normale gira solo poche scene. È una sfida all'ultimo dollaro e all'ultimo minuto. Eppure Price non si diverte così da molti anni, come ricorda Richard Matheson. Vincent Price ha dato tutto se stesso nel film. È un attore straordinario e uno splendido essere umano. Corman gira con riflettori economici che spesso si fulminano, sfrutta pezzi di scenografie scartati da altri e chiede a tutti di dare il massimo. Un giorno, insoddisfatto delle riprese della scena iniziale ambientata in una landa desolata e saputo dalla radio che è scoppiato un incendio in un bosco vicino Los Angeles, Corman costringe l'attore Mark Damon a girare alcune inquadrature aggiuntive mentre il rogo non è ancora del tutto spento e senza alcuna protezione. Cose d'altri tempi, cose alla Roger Corman. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell. Non tutti amano i metodi di Corman, le urla e il caos che regna sui suoi set, e molti si chiedono cosa c'entri lui con Edgar Allan Poe. Eppure, quando la parola azione viene gridata al megafono e la pellicola comincia a girare, l'immersione di tutti è totale. E allora Poe sembra vagare realmente tra gli attori in posa e i corridoi di cartone come una presenza concreta e ben auspicante. Ecco cosa ne pensa Richard Matheson. Secondo me Roger ha diretto molto bene il film. Certo, non aveva i mezzi necessari. Ha dovuto usare quello che aveva, ma l'atmosfera era fantastica. Ma il film è soprattutto di Vincent Price. Ogni suo sguardo, ogni respiro fanno venire i brividi. Una sola cosa non sopporta: i cestini del pranzo, pessimi. Vincent preferisce fare prove e riunioni nel suo camper personale, dove ha una cucina attrezzata e sforna in continuazione le cornie da gourmet. Il suo palato è sopraffino almeno quanto la sua recitazione, tanto che, appena ha una pausa, scrive un libro di ricette, A Treasury of Great Recipe, che ha un grande successo, ma che è niente in confronto a quello del film. Winthrop! Signor Winthrop! La prego! Signor Winthrop, vada via, la prego! Dov'è? Il muro esterno ha cominciato ad aprirsi, vada via! Dov'è andata? Non lo so, signor! La prego, la prego! Tutta la casa potrebbe crollare da un momento all'altro! Quando i vivi e i morti esce nelle sale, la fila al botteghino ferma il traffico nelle vie principali delle città. Tutti vogliono vedere la scena richiamata nella locandina, quella in cui la sorella di Roderick esce ancora viva dalla bara per vendicarsi. Le urla di terrore sono così forti che arrivano fino alle orecchie del pubblico europeo. Per la prima volta, infatti, un film di Roger Corman vola oltre oceano e ottiene non solo un grande successo di pubblico, ma anche l'attenzione della critica, tanto che 3 anni più tardi a Parigi si organizza la prima retrospettiva dei suoi film, anche quelli di mostri e navi spaziali. A 35 anni, Roger Corman non è solo uno dei registi americani più interessanti, ma anche il produttore indipendente numero uno. Certo, non tutti i suoi film sono buoni, ma sono talmente pregni di cinema da convincere molti giovani ambiziosi ad accettare qualsiasi mansione pur di entrare in un suo set. Tra loro c'è gente come James Cameron, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e il Jonathan Demme de Il silenzio degli innocenti, che lo ricorda così. Quando incontrai Roger, mi disse che non poteva pagarmi. Accettai di lavorare per lui e dopo qualche giorno mi chiese se avessi mai scritto un film. Io ovviamente risposi di sì, e anche se non era vero. Poche settimane dopo battevo il primo Chuck del mio esordio, Femmine in gabbia. Corman e Price si ritroveranno ancora in 8 film sempre più ispirati, come La tomba di Ligeia e La maschera della morte rossa. Film dove Poe è sempre un prezioso pretesto per mostrare lui, la vera star, il gigantesco Vincent Price. Ecco cosa ne pensa la figlia, Mary Victoria. Confrontandosi con il cinema, gli spot e la TV, Vincent si rese conto che il mondo degli horror era un po' ridicolo, ma si divertiva. E non credo si sarebbe divertito allo stesso modo se avesse girato film differenti. Price diventa una leggenda degli horror, anche grazie all'abilità con cui si adatta ai mezzi e alle nuove generazioni. Non è strano quindi trovarlo nel videoclip Thriller di Michael Jackson, protagonista di una serie di cartoni animati horror, perfino omaggiato da un cantante italiano, Fausto. Ve lo ricordate? Non stupisce nemmeno trovarlo nei film del suo più grande ammiratore, Tim Burton. Da bambino avevo pensieri oscuri. Ero molto timido e per qualche motivo sentivo un rapporto con i personaggi che Vincent interpretava, soprattutto quelli del ciclo tratti da Poe. Lavorare con lui fu un sogno divenuto realtà. Ed è proprio con Tim che Price gira il suo ultimo film nel ruolo dell'inventore di Edward Mani di Forbice, passando un ideale testimone a Johnny Depp, icona trasversale e sofisticata di una nuova era. Sul set parlavamo per ore delle opere di Poe e del suo film preferito, La tomba di Ligeia. Riempiva la stanza con la sua voce incredibile e che passione! Non lo dimenticherò mai. Vincent Price e Roger Corman, i maghi del terrore. 2 icone irresistibili, un incontro leggendario nato all'ombra di Edgar Allan Poe che ha cambiato non solo il cinema, ma l'intera cultura popolare. E allora, benvenuti in nuovi stupendi incubi. Sedation.